ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. Quando sentì per la prima volta citare il motto che campeggiava sul Tempio di Delfi, Gnosis Auton, il famoso conosci te stesso, non fui particolarmente colpita. Anzi, provai un vago senso di fastidio. Al mondo ci sono tante cose più interessanti da conoscere invece che se stessi. Quando poi, studiando Socrate, capii meglio il significato della frase, non provai più fastidio, ma pensai che, tutto sommato, non era particolarmente originale. Solo adesso, a distanza di più di 30 anni, comincio a capire la portata dell'insegnamento contenuto in quelle poche parole. A volte, anzi, ho l'impressione che il percorso della vita, con tutte le sue peripezie, le sue scoperte, le sue illusioni e disillusioni, altro che non sia che un lungo cammino circolare per tornare a se stessi. Quel se stessi che quando si è giovani è difficile, se non impossibile, conoscere. Troppe sono le voci che ci frastornano, le visioni che ci sviano. Oggi talvolta credo che la felicità sia tornare a essere me stessa, come ero all'inizio del cammino. Forse al conosci te stesso si potrebbe aggiungere accetta te stesso. Sospetto che l'infelicità nasca spesso dal non accettare di essere chi siamo, sforzandoci invece di essere qualcun altro, quello che gli altri ci hanno convinto che dovremmo essere. Com'è difficile però scoprire chi siamo. Al doloroso cammino dell'autoconoscenza sono dedicati molti libri di Hermann Hesse, lo scrittore tedesco del Novecento, noto ai giovani di oggi soprattutto per il romanzo Siddhartha. Vi rileggo alcune frasi del romanzo Demian, al quale abbiamo accennato la volta scorsa. La vita di ogni uomo è una via verso se stesso, il tentativo di una via, l'accenno di un sentiero. Nessun uomo è mai stato interamente lui stesso, eppure ognuno cerca di diventarlo, chi sordamente, chi luminosamente, secondo le possibilità. Mi sembra che queste parole di Hesse esprimano in maniera chiara ciò che stavo cercando poco fa di comunicarvi. La vita di ogni uomo è una via verso se stesso. Bellissimo, vero? Ed ecco come Siddhartha, il protagonista del romanzo omonimo, narra la scoperta di sé come meta del lungo e travagliato percorso di una vita intera. Non è forse come se lentamente e per grandi traviamenti io mi fossi rifatto, d'uomo, bambino, di saggio che ero, un uomo puerile? Eppure è stata buona questa via e l'usignuolo non è ancora morto nel mio petto. Ma che via fu questa? Sono dovuto passare attraverso tanta sciocchezza, tanta bruttura, tanto errore, tanto disgusto, delusione e dolore solo per poter ridiventare bambino e poter ricominciare da capo. Avete capito? Ripeto, sono dovuto passare attraverso tanta sciocchezza, tanta bruttura, tanto errore, tanto disgusto e delusione e dolore solo per poter ridiventare bambino e poter ricominciare da capo. E poi Siddhartha continua, ma è stato giusto, il mio cuore lo approva, gli occhi miei ne ridono. Ho dovuto provare la disperazione, ho dovuto abbassarmi fino al più solito di tutti i pensieri, al pensiero del suicidio, per poter rivivere la grazia, per riapprendere l'om, per poter di nuovo dormire tranquillo e risvegliarmi sereno. Ho dovuto essere un pazzo per sentire di nuovo in me l'atman. Ho dovuto peccare per poter rivivere. Dove può ancora condurmi il mio cammino? Stolte questo cammino, va strisciando obliquamente, forse va in cerchio. Ma vada come vuole, io sono contento di seguirlo. Vi auguro, mi auguro, di poter un giorno provare altrettanta allegrezza, altrettanta serena consapevolezza. A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof, ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.